Buonasera a lei. Come va? Come si presenta? Bene, bene, sto rientrando. Sono rientrato poco fa. Adesso mi sono seduto un attimino qua, già messo il pigiamino, sistemato per la notte. E la festa è finita, il sabato se n'è andato. Visto, sembrava ieri che ci fosse il sabato. E invece sta già finendo anche questo sabato. E diciamo che è finito già fra. Finito, domani è domenica, poi c'è lunedì e si inizia la settimana. E anche marzo mi sa che è andato. Oggi mi sarà il cambio d'orario, quindi domani ci attiamo un'ora prima, così è. Esatto, quindi svegliati a mezzanotte e cambiare le luci. Io meno male c'ho gli automatici. Ai, già siamo messi bene. Comunque sta peggiorando. No, non usciamo più veramente, hai visto? Sembrava, stamattina c'era un freddo cane, poi è iniziato il vento, adesso dovrebbe avvicinarsi un temporale. Vediamo un po' cosa succede. C'è questo freddo all'imbeccio, certo, l'imbeccio che è chiaro. Forse c'era anche un po' di maestralotto, allora ripunta. Ora ha girato nuovamente all'imbeccio, quindi sicuramente piove. E vabbè, pazienza. Sì, c'è freddo. Adesso è rientrato poco fa, ero fuori e c'è freddo. Infatti c'è mia figlia a casa, porto il tuo cane perché io sono stanco morto. E c'è freschetto. E vabbè. Domani ci andiamo in campagna, di nuovo. Vediamo quello che si può fare, si fa, e se no ce ne rientriamo a casa se piove. Venite a piacere la campagna, no? Sì, ti dirò, se c'è bella giornata vi piace, Giaffra. Se c'è bella giornata sì. Capito? Ti passa la giornata ma che te ne accorgi. Se però c'è brutto tempo non mi piace. Non mi piace così come adesso. Non mi piacerò. Però se è bella giornata già va bene. Altro lavoro, non si finisce mai. Io stamattina all'alba ho pulito i filtri dell'acqua che erano neri. Poi cosa ho fatto? Non me lo ricordo neanche, altre riparazioni varie, una veloce verniciatura, un po' di cose di casa e poi sono subito uscito. E tutti i giorni così. No, io domani c'ho anche l'incarico del vicino, che non c'è. Vado a andare a mangiare i cani, c'ha due cani, che ormai mi conoscono, lui non c'è, ma anche tu la cortesia, quindi c'ho anche quell'impegno. No, io già cambio l'orario, lo cambio prima di coricarmi, Gianfra, così non mi butti. Capito? Così una mattina lascio alle 10, vado da mangiare i cani, lo tengo un po' lì in campagna e poi me ne rientro. Se è bella giornata magari trattengo un po' di più, se no mi rientro subito immediatamente, tanto bacca a morire dallo freddo, è meglio starsene a casa. Sì, ma insomma io già c'ho a casa, no? ti puoi sempre riparare, dai, non sei all'aperto. Sì, vabbè, ma cosa fai? No. Mia moglie non ci viene, c'è da fare qua, quindi andare da solo per stare lì, no, non è che, beh certo, c'è la casa sì, la casa è anche bella grande, non mi sarei messo anche a tagliare erba, ma no, te l'ho detto, c'è brutto tempo, no? Non fa, quindi me ne rientro a casa, sicuramente. Anche perché poi a mezzogiorno ho appuntamento con il mio ex collega, che è il suo compleanno, mi ha chiamato oggi, ma io ero al mercato a fare la spesa e quindi non mi ha potuto invitare davvero. Guarda, ci vediamo domani mattina e ci prendiamo un caffè assieme e quindi me ne rientro. KK, va bene che va bene. E poi vedrai quando sei lì. E tutta un'altra cosa, se venissi da un casotto di città, ti porti a coso lì a, come si chiama, no, al camionino, quando fai tutto lo spazio, tutto quel giardino in cui può rassolare, sembrava di essere in paradiso. Sì, già ho portato la mattina, già ho portato, mentre sto facendo, devo mangiare gli altri cani, già gioca, non c'è problema. Però ti ripeto, se non c'è freddo, se non è brutta giornata, se no preferisco rientrarmene a casa, già ha capito. Va bene, per il resto non si è sentito nessuno, io ieri no, manco acceso, nulla, tutto spento. E non ne ho molta voglia, non già fa. La passione è ancora meno, oramai, poco tempo ciò. No, ieri c'era un attavino, ci hanno fatto una chiacchierata, una mezz'oretta, così, giusto per passare il tempo. E niente, dove fare? Non funziona, quanto stiamo diventando rincoglionisti, guardando la stampante non funziona, però quello non funziona, no, non c'è il collegamento, è ottobre, caro mio, come si dice, la vecchia carogna? Ehi, lascia aperta, guarda, io sto attaccando una prolunga, c'è il filo attaccato, prolunga tutto, mi sono rimesso una lampadina a volante, ho provato 4, non è che sono andato a essere appresa e attaccata, non so più già meno lampadini, ma è possibile che non c'è una lampadina che sia buona, effettivamente erano tutte buone, era la spina che non era attaccata e era appresa. È così, ecco. Almeno così i giovani ci possono dire che siamo ricoglioniti. Che bella soddisfazione, eh? E infatti. Beh, vabbè. Guarda, devo far ridere la vicciaia. Oh, iaia. No, ma più che ricogliorismo già fa distrazione, non sei più attento a quello che stai facendo, capito? No, non fa. L'altro giorno ho spesso scaricato roba dal cofano, ho chiuso la macchina con l'unico cosa che ho fatto, comunque c'erano le chiavi dentro, mi sono persi lì, meno male che sono riuscito a aprire il cofano e l'ho aperta, diciamo che toccava in impuma la campagna. Infatti è così, siamo giovani dentro, ancora, però fuori sono un po' caduto in bambini, figurati che qualche mese fa stavo facendo i lavori, collegando una presa particolare, ero convinto aver staccato la corrente e ci ho messo le mani, ho fatto un brinco e 4 non bastano. Lui deve stare proprio attenti, e già fra. Ah, ma io queste fesserie, cose che non. Ero molto più attento quando stavo lavorando che adesso. Proprio neanche disattenzioni, sono, capito? Disattenzioni. Vabbè, pazienza. No, ma cazzo, quella della lampadina, allucinante, mi sono anche incazzato con mia moglie, c'era mia moglie. È tanto possibile che bruciate le lampadine, non mi avvisate, almeno le compro, le teniamo di scorta, capito? Lampadine, io non ho mai toccato una, non ho mai toccato niente, ma quindi mi cazzavo, stai preso in giro, non mi funziona manco una, e canta a ganta mi diceva, io non ho toccato niente, alla fine, dopo averne cambiato, sostituito 3, ci ho fatto, c'era la spina che non era inserita nella presa, proprio allucinante. Oh, vabbè. Pazienza, già faccia, già fa, sarà. I Luigi già hanno venuta, no? Infatti, infatti l'importante sto per raccontare lì da me. È così. Adesso cioè, poi ci sta bene, no? Noi facciamo un giro gli anziani e dice c'è il tocco di portare, ah, va a toccare a noi, mi sembra giusto. Ah, infatti, è proprio così. Però, dai, linea di massima già, già siamo ancora attenti. L'importante è che tutto va bene, poi quelle sono cose che già si mettono a posto da sole, piano piano. Kappa. Ah, dico Mattarino ieri in radio. Ho capito. No, io non ho acceso neanche. Assolutamente. No. Una volta non ne ho neanche voglia di accendere, manco di entrare qua in stanza, figurati. E poi ti ripeto che sta venendo a mancare anche la passione della 27. Mai. Forse perché ho altre cose da fare, ho altri impegni. Capitale se mi ho acceso un po'. E ti ho sentito. No, sono già arrivato meno 10, ma fa pochino, poi ti spengo di nuovo tutto. Mi guarda un TG, finalmente si sta formando il governo, visto che hanno fatto il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Adesso vediamo chi fanno Premier, o Salvini o Di Maio. Sta il Presidente della Repubblica, mi pare, visto che la Camera e il Senato è già fatta. Così pare, meno male. Qualcuno non dorme, sono i tranquilli, sente che i vitalizi sono in pericolo di là, infatti non li possono vedere, non li possono vedere, ma speriamo che quanto prima facciamo un governo e iniziamo a metterci mano, così finiscono queste vere e proprie ingiustizie di chi ha niente, che se ne fa 40 anni o con 5-6 mila euro la faccia nostra, che ci dobbiamo rimanere fino a 67, a prenderne poi 800 euro, così almeno vediamo un po', speriamo, noi altro non possiamo fare. Vabbè, speriamo bene, già fra cosa mi dica, tanto io domani non c'è più niente da perdere, arrivato sono, se mi lascia Gesù Cristo mi godo quello che ho già fatto e se non faccia come vuole, intanto comanda Edoni, non c'è niente da fare, capito? Ma sembra che siano in accordi buoni, la Lega con 5 Stelle, vediamo cosa riescono a fare. L'importante è che adesso ci sia già la Camera e il Senato, adesso vediamo i ministri, vediamo chi è che fa il Presidente del Consiglio e poi speriamo, la speranza nostra degli italiani è che mantengano ciò che hanno detto, capite? Che tolgano di mezzo le balle e tutte queste cose che non servono a niente, che finalmente si possano avere soprattutto i giovani un prospetto lavorativo, che ci sia un po' meno tasse, che ci sia l'aiuto a chi ne ha bisogno, che ci siano le cose necessarie, nessuno sta chiedendo niente, ma che ci sia quel poco che serve per far sì che tutti stiamo bene, ma soprattutto la cosa principale devono fare, non mandare la gente in pensione a 67 anni, 60 anni è più che sufficiente, quando uno ha 60 anni di età e ha lavorato per 40 anni va benissimo, tutti a casa, largo ai giovani, capite? Così si creano anche altri posti di lavoro, se questo è ben venga, altrimenti per me, ti ripeto, sono tutti uguali, è già fra, non cambia assolutamente niente, sia di quello che hanno detto o di quello che vogliono fare, per me la mia idea è sempre quella che sono tutti uguali. Vediamo cosa succede, noi non possiamo fare altro che aspettare, loro adesso mantengono la promessa o se prendono in giro anche questa volta. Non c'è altro da fare, caro mio. Comunque hai detto bene, finché finché il piano di sopra ci lascia, perché oramai il giornale, altro che aspettarsi la rivista, ogni tanto ce n'è una. Questa mattina sono passato sulla camionata, ho visto tutti i fiori, forse è di quello là che si è sentito male, deve essere, c'è uscito fuori, se ne è andata molto male, quindi chiediamoci la salute, non possiamo fare altro. Guarda, ti ribadisco e ti ripeto che io sono arrivato già fra un po', toccherà anche a te. L'importante è che ci sia, ti ripeto ancora, largo ai giovani, perché la forza sono loro in questo momento. Se non c'è forza per loro, lavorativa, continuativa e soprattutto pensionistica per un futuro, non possiamo andare avanti, non possiamo andare avanti. Capito? Quindi se veramente decidono di abolire la legge Fornero, di dedicarsi a varare un'altra legge, 60 anni in età con 40 anni i contributi, ci sono tanti, tanti, tanti posti di lavoro, tantissimi posti di lavoro, sia negli enti pubblici che anche nel privato, perché anche le grandi società, le multinazionali, le SPA sono costrette ad assumere, però non assumono perché il personale è quello e perché stanno aspettando che la gente vada in pensione. Perché anche da noi, nella mia società dove lavoravo io prima, tutti quelli che siamo andati in pensione, ti posso dire con molta sincerità, e sono contentissimo che l'hanno fatto, hanno già realizzato il nuovo personale, hanno già assunto un nuovo personale per far sì che l'organico non sia mai in calo, capito? Con dei corsi subito, immediatamente di aggiornamento, di preparazione tecnica, di affiancamento, ci sono, noi siamo andati via in 6, 4 li hanno già presi e 4 entrano, e gli altri 2 entrano a maggio, capito? E quindi sono contentissimo che almeno, dico, la mia azienda abbia fatto un passo del genere, e così deve essere per tutti. Chi va in pensione deve essere subito rimpiazzato, però il rimpiazzo purtroppo è molto lungo, perché con questo sistema pensionistico a 67 anni e balle varie è chiaro che ci sono tante, tante aziende che hanno personale anziano che però se non vanno in pensione non possono assumere, capito? Quindi speriamo bene. Ti ripeto ancora, per me sono tutti uguali, io ho sentito solo parole e pochi fatti. In tutti questi anni di governo, in tutti gli anni di politica e tutte le cose che sono state dette, molte non sono state fatte. Quindi spero che finalmente questo nuovo governo faccia qualcosa di buono, ma soprattutto quello che ha detto e stabilito in campagna elettorale. Rosso, speriamo. Ma io sono ad esempio che in molti posti ricambi non ne faranno, molte pubbliche amministrazioni che già sono all'osso non le vogliono fare per risparmiare sempre di più. Infatti già dopo lo stanno facendo, i servizi stanno crollando, la sanità è allo sfascio perché gli infermieri sono pochi, con un lavoro massacrante, sollevare malati, fare cose di genere, è sfiancante, sono tutti acciaccati quelli che ci sono, tutti con mal di schiena, tutti a forza di cortisone, non c'è proprio un disastro. Bisogna vedere se ci sono i soldi per pagarle queste pensioni, quindi fino adesso i soldi ne hanno tolti solo per quelli privilegiati che se ne vanno a 40 anni, lasciamo perdere. Poi io, caro Claudio, comunque l'importante per noi che oramai siamo sulla fila del tramonto è continuare a salire la scala. Ti ha giudito, già piano piano la scala già sale, già ce la facciamo ancora, fare qualche gradino, però è molto importante che i giovani abbiano spazio, che i giovani abbiano un posto di lavoro, perché è assurdo dirlo che con 30% in Italia di laureati e diplomati, solo il 30% stanno lavorando. Queste sono statistiche dette da poco alla, in quel programma che danno a, mi sembra, a Quinta Colonna. Capito? Cioè è una statistica molto molto bassa. E oramai la manovranza è a livello zero, perché come tu mi scegli, aziende di alto livello hanno tutti i macchinari, tutti elettronici, quindi è chiaro, ci vuole il laureato, ci vuole il diplomato, ci vuole il perito, ma anche le grandi aziende si dovranno adeguare a questo, perché con tutti i contributi che dà lo Stato per le assunzioni non sono mai state messe in vigore dalle grosse aziende, capito? Pensano ad assumere il figlio del fratello, il figlio dello zio, il figlio della cugina, il figlio della sorella, mentre chi ha dato veramente il cuore per poter avere un buon posto di lavoro e partecipare a un concorso, questo non c'è, non avviene, ma da tantissimi anni. Vabbè. Speriamo bene che questa volta il governo si metta veramente la mano sulla coscienza e pensi agli italiani e non a mantenere gli emigrati nei rifugi, capito? Ok, cosa vuoi che ti dica, è tutto un macello veramente grosso. È così. Comunque, come ha detto, noi ci dobbiamo occupare un pochettino di noi stessi adesso, tanto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso ci attende un po' di riposo, sperando che sia sereno la sanità, innanzitutto la prima cosa, e poi la salute, anzi prima la salute, perché se manca quella siamo tutti. Speriamo di essere un po' fortunati. No, già fa, io come dico la sera, non so gomani moccolo. Quindi adesso assieme a mia figlia stiamo facendo un altro investimento, abbastanza grosso tra l'altro, e mi metto nuovamente in gioco, perché grazie a Dio mi sento ancora di fare qualcosa, capito? Proprio per tenermi, per non stare fermo, perciò non è che mi devo rincoglionire come hai detto tu e stare a zappare. Non io vado a fare io, assolutamente, però metto in gioco perché ho voglia di fare, ho voglia ancora di muovermi, capito? Però senza, per carità, portare via il lavoro agli altri è una cosa nostra, quindi ce la gestiamo noi a livello familiare. Molto probabilmente un'assunzione la dovrà fare mia figlia, ma questo si vedrà camminando, però per dirti che non è detto che uno a 60 anni si debba fermare del tutto, e hai voglia di fare, che è inventive, che è denaro da investire, ben venga, e c'è sempre da guadagnare. Se non è più gana, allora ti fermi e dici arrangiatevi, io ho già dato, adesso date voi. Però bisogna sempre pensare che c'è anche il fattore dell'età, e finché sei intorno ai 60 ancora imbatti, ma quando te ne vai da lavoro a 67 anni, insomma, tutti quelli che ho visti sembra che ci sia la maledizione del faraone quasi, durano un anno e poi iniziano a stare male, eccetera. Anche gente che grazie a Dio fa anche sport, ma li incontri e dici come va? Va male, va questo, quell'altro, sembra che escano poi tutti gli acciacchi possibili e immaginabili. È una cosa, infatti io ho detto per il sicuro finché sta lontano il più possibile la pensione, perché con tutte le bestemmie che ti manda l'Inps è capace che ci arrivi. Ma infatti andare a lavorare sotto alle dipendenze, soprattutto di grandi società come la mia, rimane lì fino a 67 anni, penso che vada un raio prima, però come me, che non ce li ho neanche 60, io già fra 30, io ne faccio 59 a novembre, quindi non ce li ho neanche 60, perciò mi sento ancora in grado di potermi realizzare sempre a livello personale, capite? Quindi, l'ho detto a mia figlia, io sino a 65 mi metto in gioco, dopodiché a me lasciami perdere, io mi do la mia pensione, con mamma, e facciamo i vecchietti, e basta. Però ancora a 59 anni si può fare tanto, si può dare tanto, nonostante abbia l'atto, perché per l'età che ho avere più di 40 anni di contributi non è poco, e già essere a livello pensionistico, però dico, si può dare, si può fare, si può realizzare, tanto quando hai qualcosa da fare, la lasci di ferma, alla fine la consumi, neanche te ne accorgi, invece è meglio investirla e c'hai sempre qualcosa per un domani, se non per te, ma almeno per i figli. Questo è il discorso. Mimì, Giuseppe è uscito fuori, è un pensionato. Avanti Giuseppe, buonasera, altre 5 minuti e poi me ne vado. Sì, Giuseppe, tu oramai hai dato prima di noi Gianfranco ha già dato, poco le manca, io ho dato lo stesso, però il discorso è quello. Sempre lui comanda Giuseppe, se ci lascia ancora ci mettiamo in gioco a fare qualche cosetta, che non sia molto pesante però, giusto per non stare seduti alla sedia a rincoglionirti, se no che faccia quello che vuole, cosa vuoi ti dica Giuseppe, tanto non ci sono parole quando lui dice io che è arrivata l'ora, devi bigliare la valigia e partì. Vai Gianfra, saluterà Giuseppe. Non so neanche se mi senta, perché lui c'ha la seconda antenna un pochettino così. Comunque, se mi ascolta lo saluto. Anch'io non me l'ho accorto, sono già 7:10 quasi. È volato, Quindi niente. Tra poco vado via anch'io. E poi ci mettiamo anche gli orologi già pronti, perché domani ci alziamo praticamente, sono alle 5. E allora avanti, Giuseppe, l'hai sentito Gianfranco, lo senti? È un problema Giuseppe, che la nazione non fa quello che deve fare, perché come hai sentito pensano ad occupare i propri e non bandire concorsi per i giovani, per i laureati, i diplomati, ma anche sì un po' di manovalanza, gente che ha bisogno di manovalanza, purtroppo col sistema che c'è lavorativo oggi, dell'elettronica, dei macchinari, dei robot, tra un po' ci danno anche le forchette elettriche, capito, che ti riempiono vanno lì nel piatto a prendere il mangiare, te lo mettono in bocca, arriveremo anche a questo, visto che sono già nate, stanno nascendo le macchine elettriche, le macchine che oramai non hanno bisogno manco di conducente, fra un po' parcheggiano anche da sole, quindi no, vogliamo arrivare, è tutto un blef, se tu consideri che nella nettezza urbana, oggi come oggi, un operatore fa tutto, guida il camion e raccoglie praticamente i cassonetti, imbraga i cassonetti e li porta dentro. Quando sino a poco tempo fa c'era l'autista con due operatori a seguito, quindi già un'azienda a mezzo sta risparmiando quante persone. Questo perché? Perché sono arrivati questi mezzi elettronici che col sistema computerizzato prendono il cassonetto e nella qual c'ha il peso, quindi più di quel peso lo puoi caricare, fa tutto lui, va, scarica e ritorna a fare il giro. Capito? Quindi già siamo arrivati a questo sistema lavorativo. Fra un po' i cassonetti della nettezza urbana cosa fanno? Saranno computerizzati a uno, capito? Via computer, siccome hanno già le ruote, prendono la strada lì del deposito, vanno, si svuotano da solo e poi si riposizionano nel posto dove dovrebbero essere. Vedrai che arriveremo anche a quello, Giuseppe. Vai Gianfranco. magari le mettono due ricchette e volano, così vedi il cassonetto volante. E la scaricò l'aria, l'hanno detto. Vabbè, credo, hanno già chiamato, quindi devo scappare. Ci sentiamo, fate ascoltare, ogni tanto ci facciamo quattro battute, un minuto. Salutami Giuseppe, non ho capito se mi sente o meno, comunque. Buona serata anche a lui, scappo via. Riprendi Claudio e saluti anche a tutti quelli che stanno ascoltando, che ce ne sono tanti. Ciao ciao. Ciao Gianfranco, no, purtroppo non ti ascolto, dai. Un saluto, buona cena, buon tutto, alle prossime. Ok, vai Giuseppe, beh, se tu vedi cosa, quelli sono robot, io non ce l'ho perché grazie a Dio mia moglie c'ha ancora le mani, e quindi a spazzare ci pensa lei con la scopa normale, manuale, però già vedi il sistema delle piscine oramai è robotizzato. Quando io ero ragazzo che ho lavorato in un hotel che si chiama Hotel Bissoni, a Polottose, che è stato uno dei primi ad avere la piscina, io tutte le mattine, perché ero manutentore, la pulivo guru gambaraggio. Prima col gamberaio toglievo tutte le foglie da sopra, le cose che si depositavano sopra, e poi con la scopa immersa nell'acqua, con l'aspiratore a bocchetta, passavo la scopa, capito? Oggi non c'è più questo sistema, oggi tu metti all'interno il robot e lui cammina dentro l'acqua e pulisce tutto senza fare assolutamente il minimo sforzo. Quindi pian pianino, Giuseppe, andranno o saranno già eliminati quei lavoratori, quei manutentori che facevano quel tipo di lavoro, perché siamo arrivati a quel livello, capito? È come prima portavi gli alberi con la forbice, tu mi segni, adesso c'è il macchinario che passa 5 minuti dagli addutto e fra un po' ti fa anche le fascine per la legna, capito? Esatto, perché qua stai, non lo fanno, cioè oramai è tutto a livello di macchinari, perciò di questo stavamo parlando, che la categoria lavorativa è calata anche per quello, perché tutte le aziende si sono messe all'avanguardia con tutti i sistemi tecnici, macchinari di ultima generazione, che danno la possibilità, anziché fare il lavoro di un operaio in un'ora o in 6 ore, te lo fai in 10 minuti, è tutto lì. Vabbè, speriamo bene Giuseppe, adesso il Presidente della Camera e del Senato ce l'abbiamo, adesso aspettiamo il Presidente del Consiglio e poi vediamo quanto durano, se si scornano, per me si possono anche impiccare, capito? Per me si possono anche uccidere tutti, oramai non mi interessa più niente, non devo più chiedere niente a nessuno Giuseppe. Che si arrangino. Dai che mi hanno chiamato per cenare, Giuseppe, un abbraccio grande, mi ha detto Valerio che gli hai dato l'alimentatore, c'era lui, sto aspettando che stia bene perché non sta bene, mi ha detto che non era in forma, quindi aspettiamo che si riprenda, poi quando scende a Sassari che me lo porta, te lo controllo, ok? Ciao Giuseppe, grazie a te delle due chiacchiere, dai, alle prossime, ciao, buona domenica, saluto anche tutti quelli che sono in ascolto sul canale 10, buona serata a tutti.